Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, grazie per essere in nostra compagnia. Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire i titoli di oggi. Prostata, la ghiandola che fa paura agli uomini. Giornata mondiale delle malattie reumatiche. Impara a riconoscere i campanelli d'allarme. La pasta, una ricetta a 5 stelle. È poco più grande di una castagna, ma fa tremare milioni di uomini. Parliamo di prostata. Insieme a noi oggi il professor Francesco Montorsi, professore di urologia presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno e bentornato. Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Professore, la puntata di oggi non sarà facile, ma già lo sappiamo, perché vogliamo affrontare un tema molto delicato che fa tanta paura e su cui c'è parecchia confusione e, devo dirle, mi scusi, ma in parte alimentata da voi stessi medici, che sembrate avere pareri un po' discordanti su alcuni punti chiave. Quindi oggi cercheremo di fare chiarezza. Iniziamo a capire di che tumore stiamo parlando, perché, professore, mi sembra abbia delle caratteristiche specifiche che in un certo senso possono già aiutarci a ridimensionare un po' il problema. Il tumore della prostata, da una parte, è estremamente frequente nella popolazione maschile. I dati sono tipicamente riferiti agli uomini che hanno più di 50 anni, ce n'è tantissimi. L'altro aspetto è che può essere con diverse caratteristiche. Tumori, tra virgolette, più buoni, che se scoperti in un uomo di età più avanzata non gli creeranno mai nessun problema, anche se vengono lasciati stare. Tumori aggressivi che al contrario sono delle brutte bestie e che devono essere affrontate con tutte le armi che noi abbiamo a disposizione. Professore, allora io invito i nostri ascoltatori da casa a mettersi in contatto con noi al nostro numero verde 800 24 00 24. Raccontateci, soprattutto tirate fuori tutti i vostri dubbi, le cose che avete letto, le cose che non vi tornano. Potete come sempre inviarci messaggi al 349 238 6666. Il professor Montorsi rimane a nostra disposizione sino alle 12, quindi direi che possiamo approfittarne, e quindi vi invito a mettervi subito in contatto con noi. Una mela al giorno. Oggi 12 ottobre è la giornata mondiale delle malattie reumatiche. Riconoscere i segnali e intervenire rapidamente sono fattori essenziali per limitare i danni alle articolazioni e quindi curare meglio queste malattie. Con questi obiettivi, quindi, la Fondazione Italiana per la Ricerca sull'Artrite ha deciso di raccogliere in un decalogo i campanelli d'allarme che segnalano la necessità di rivolgersi al medico. E li stanno presentando ora in una conferenza stampa a Milano e noi ci colleghiamo con il professor Carlo Maurizio Montecucco, direttore della clinica di reumatologia dell'Università di Pavia al Policlinico San Matteo e presidente della Società Italiana di Reumatologia. Professore, grazie per essere con noi, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno. Allora, professore, partiamo dai campanelli d'allarme. Riconoscerli può salvare la situazione? Sì, certamente, perché le malattie reumatiche sono tante e molte di queste non sono particolarmente gravi e quindi non è indispensabile fare una diagnosi iperprecoce, mentre per alcune di queste è indispensabile arrivare presto ad una diagnosi, perché solo così è possibile limitare i danni che queste malattie possono dare. Quindi rivolgersi precocemente al medico è indispensabile in questi casi. Vogliamo, professore, ricordare quali sono i segnali, i campanelli d'allarme più importanti? I campanelli d'allarme più importanti sono un gonfiore alle articolazioni o una grossa articolazione come un ginocchio, in assenza di un trauma, in assenza di una causa che possa essere scatenante, piuttosto che i gonfiori alle articolazioni delle mani o dei polsi, specie se associate a una rigidità al mattino che dura mezz'ora o anche un'ora, sì. Questo è un campanello d'allarme importante. Poi ci sono altri campanelli d'allarme cui uno non pensa che possono essere dovuti a una malattia reumatica, per esempio lo sbiancamento delle mani con il freddo, delle dita, sì, che diventano prima bianche, poi bluastre, poi rosse, questo può essere un segno precoce di una malattia reumatica. può essere semplicemente un disturbo circolatorio di poco conto, soprattutto nelle ragazze giovani, ma se insorge dopo i 20 anni è bene recarsi subito dal medico e fare gli accertamenti del caso. Grazie professor Montecucco, dedicheremo naturalmente alle malattie reumatiche un'intera trasmissione insieme al professor Montecucco tra breve, nelle prossime settimane. Professore, grazie, la lascio alla sua conferenza stampa, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei, di nuovo, arrivederci. Buona giornata. Pronto soccorso. Andrea, sono andata dal dottore e mi ha detto di ricordarti della prostata. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire ricordarti della prostata? Le mando i fiori? Le faccio gli auguri? Compie gli anni? Sì, li compite insieme, hai 53 anni. E dopo i 50? Bisogna vedere come sta. Senti, io non ho nulla, la mia prostata sta benissimo. Sì, ma perché fate sempre gli scongiuri quando si parla di prostata? Se tu mi dici ovaie e utero, mica mi metto a fare le corna. Senti, diciamocelo, qui è tutta un'altra cosa. Anche come visita, dai, vuoi mettere un'esplorazione rettale? Non so se mi spiego. Non sarà mica una tragedia. Ma tu non ti sei mai fatto misurare neppure il PSA? E lì basta un prelievo di sangue. Brava, è qui che ti aspettavo. Ma se non sanno neppure loro se serva o no, magari ti operano e il tumore non sarebbe mai diventato pericoloso. Ma per favore, e poi rimani con quei due piccoli problemini che... Vogliamo parlarne? Senti, invece che parlarne con me come se fosse colpa mia, perché non ti chiarisci le idee? Bene, speriamo allora che chi si è riconosciuto in questo marito, in Andrea, ci segua e ci chiami subito all'800-24-0024. Professor Montorsi, abbiamo fatto una specie di identikit del tumore prostatico, no? Abbiamo detto che è frequente, che possono esserci dei tumori buoni oppure delle cattive bestie, come le ha definiti lei. Ci sono anche quindi tante strategie per affrontarlo, ma professore, possiamo dire che è un tumore che si presenta soprattutto in soggetti che sono in là negli anni, ma ci sono persone che sono più a rischio di altri? La scenetta che abbiamo appena ascoltato, ben fatta, ha sottolineato alcuni aspetti che meritano di essere chiariti. Non è possibile dire oggi che il problema non esista. La problematica del tumore della prostata è sul tavolo, interessa persone con delle età che sono sempre più giovani, vale a dire che nei centri di riferimento vediamo arrivare con sempre maggiore frequenza uomini anche al di sotto dei 50 anni. Il rischio più importante è quello della familiarità, sì. Vale a dire che se il papà o uno zio ha avuto un cancro della prostata, il rischio che questo si identifichi anche nei suoi discendenti è molto più elevato rispetto a quello della popolazione normale. Non abbiamo purtroppo altri segnali di allarme più significativi se non questo benedetto esame del sangue che si chiama PSA, che se eseguito ad un'età molto giovanile di circa 40 anni è molto indicativo delle reali condizioni di salute della prostata prima che questa abbia iniziato ad ingrossarsi, come succede in tutti i maschi, legato ad un ingrossamento tipicamente benigno. Allora il PSA potrebbe salire anche per quello. Gli studi più recenti, che sono studi di popolazione fatti su decine di migliaia di uomini, suggeriscono che un dosaggio del PSA fatto in età giovanile possa essere un punto di partenza prognostico molto importante, perché chi ha un PSA basso, basso, basso, già all'età di 40 anni, è difficilissimo che sviluppi delle malattie prostatiche tumorali nel corso di tutta la sua vita. E chi ha invece un PSA a quell'età superiore a certi limiti ha un rischio superiore. Allora tutta la partita si gioca nell'identificare i cosiddetti fattori di rischio, che possono poi essere messi insieme come la ereditarietà, il fatto del PSA di partenza, l'esplorazione rettale, che è un esame che non dà francamente nessun fastidio. Il nostro amico che parlava nella scenetta è stato volutamente provocatorio, ma è un esame veramente non fastidioso e che dura 5 secondi, non di più. Sono tutti parametri che ci devono permettere di fare il profilo della persona che il medico ha di fronte. Non è pensabile che tutti vengano trattati nello stesso modo, per cui i medici devono essere bravi nel mettere in campo tutte le loro conoscenze e capire qual è l'uomo che è più a rischio e quello che ha meno. Non è un mestiere che può fare il paziente da solo, si va dallo specialista proprio per questo. Esistono oggi degli strumenti che si chiamano calcolatori del rischio, che devono essere presenti nello studio di uno specialista, che permettono di inserire l'età, come dicevo, il PSA, com'era l'esplorazione rettale, se c'è una familiarità piuttosto che altro, l'ecografia come è andata ad esempio, e dire: caro signore, secondo questi dati lei ha un rischio basso, moderato o alto di poter sviluppare un tumore della prostata. Sulla base di questo è corretto che lei segua un percorso personalizzato per lei, facendo il PSA ogni X anni. Non tutti devono farlo tutti gli anni. Alcuni gli si può dire: tutto va bene, torni tra 5 anni a farsi vedere. Però il punto è che, tra virgolette, criminalizzare il PSA dicendo che non ci aiuta abbastanza ci porta esclusivamente a perdere quei pazienti con brutti cancri che, se noi becchiamo all'inizio, guariamo. E oggi, sempre per tornare alla scenetta, non è vero che si viene lasciati con i due problemi della continenza e della impotenza, perché se il trattamento è scelto bene ed è fatto da un medico preparato, queste problematiche non esistono più. Insomma, il nostro Andrea aveva tante paure e molte di queste infondate, professor Montorsi, per usare un eufemismo, no? Ma io credo che Andrea quantomeno rifletta il pensare di molte persone che preferiscono un atteggiamento, se mi è consentito, un po' astruzzo, mettono la testa sotto la sabbia pur di non sapere. Tenga conto che un altro dei veri problemi è che in età soprattutto giovanile la prostata segni di sé non ne dà, per cui il volere fare un PSA rientra proprio in una di quelle opere di diagnosi precoce, come però la signora che ha una mammella totalmente normale, che anche facendo l'autopalpazione non sente nulla, ma che sa però che dall'età dai 40 ai 50 anni è importante che faccia una mammografia, che è una rastra. Apparentemente verrebbe da dire da parte di questa signora: ma per quale motivo devo farla se la visita è tutto normale, non ho fattori di rischio di altro genere? È noto oggi che con la mammografia si salvano delle vite. E la prostata si sta incanalando nello stesso tipo di situazione, soltanto è che l'impatto della malattia è meno crudele di quello del tumore del seno, e allora dobbiamo lì essere in grado di identificare chi tra i tanti maschi che fanno il PSA deve poi essere studiato in maniera adeguata. Non però poter dire il PSA non serve a nulla, perché i medici che dicono così mi addolorano in quanto dimostrano di non avere mai visto in ambulatorio un uomo con problemi di tumore della prostata, perché venissero insieme a me un pomeriggio e parlassero con persone anche giovani con dei bambini e si trovano un problema di questo genere e sono arrivati tardi. Allora diamo delle informazioni corrette che non siano allarmistiche né in un senso però neanche nell'altro. E allora, per informazioni corrette, un ascoltatore giustamente mi scrive: parlate del PSA, ma che cos'è? È l'acronimo di antigene prostatico specifico, che, medichese a parte, professore, vuol dire che è una proteina contenuta all'interno dello sperma, del liquido seminale maschile, che a noi maschi serve perché se non l'avessimo non potremmo avere dei figli. Partecipa nella liquefazione del liquido seminale dopo che questo è stato espulso. In altre parole, lo sperma in vagina diventa, tra virgolette, attivo per poter far partire una gravidanza se avvengono una serie di sue modificazioni. Il PSA fa sì che questo possa avvenire. Senza PSA noi maschi figli non ne abbiamo. Allora, andiamo a Francesco, che ci chiama dalla provincia di Pistoia, 824-0024. Buongiorno Francesco, benvenuto. Buongiorno a lei, la ringrazio, e buongiorno anche al professor che è in linea. Che ora non mi Montorsi. Ricordo. Montorsi, grazie. Dunque, in pratica le domande che avevo da fare già ho avuto una risposta, cioè quasi a tutte. Sì. Comunque niente, io ho un papà che è stato operato di prostata, è stata tolta la prostata. Ho 43 anni. Sì. Volevo chiedere in pratica a che livello dovrebbe stare a questa età il PSA. Poi i sintomi che devono far preoccupare, sì, che dovrebbero far preoccupare, e poi niente, gli esami di routine che, come diceva prima il professore, che devono essere fatti sempre, ecco, e ogni quanto tempo eventualmente. Poi ecco una domanda che mi ha ispirato il professore. Sì. Lui ha parlato di cancro brutto. Sì. E, ecco, se magari può essere un po' più chiaro su questo. E poi un'altra cosa. Io sì, una volta, seguendo sempre la vostra trasmissione, avevo sentito parlare di un esame che si chiama, se non ho segnato male, risonanza magnetica con studio spettroscopico dinamico. Mm. E volevo sapere se è un qualcosa di... che può essere utile. Sì. Allora, Francesco, io ho appuntato tutte le sue domande, che sono tante. Bisognerebbe fare un opuscolino, professor Montorsi. Ma ce ne sono già a disposizione, sia la Società Italiana che la Società Europea di Urologia sono scatenate da questi punti di vista, gliene farò avere una copia. Credo che il nostro ascoltatore abbia toccato tutti i punti cruciali. Cerchiamo di andare in fretta e dare una risposta, sì, veloce su tutto. Il livello, papà, sì. Il papà per primo. Allora, quando si dice operato di prostata, bisogna innanzitutto chiarire se è stato operato per una prostata benigna, ingrossata, e allora quello non crea nessun problema, o se avesse un vero e proprio cancro della prostata. Per cui andate a capire bene nel vostro albero genealogico se di tumori, di cancri prostatici ce n'è o meno traccia. Mettiamo che questo signore abbia il papà che ha avuto un cancro prostatico vero e proprio, allora ha una familiarità positiva. A 43 anni deve avere fatto tassativamente un PSA, si presuppone che a quell'età giovanile la prostata molto ingrossata non sia ancora, per cui il PSA è veramente riflette se la prostata è sana o meno. Allora un PSA a quell'età dovrebbe essere inferiore ad un valore di 0,9, quindi un valore molto basso, che deriva da studi fatti in Svezia, dove una coorte ampia di pazienti è stata seguita per 30 anni di fila. Alla fine di questi 30 anni si è guardato chi è morto per tumore della prostata e si è poi andati in maniera retroattiva a capire all'età tra i 40 e i 50 anni che valore di PSA avevano. Allora PSA molto molto bassi, al di sotto dello 0,9, praticamente cancellano quasi il rischio che si possa morire un domani di tumore della prostata. Se questo paziente ha un valore più alto, allora deve essere studiato. Se ha dei disturbi, che possono essere alzarsi di notte per fare la pipì più di frequente, un getto che è un po' ridotto, si può pensare che ci sia una componente anche di tipo infiammatorio. Può essere utile che lui si tratti con un antibiotico prima e poi ripeta la valutazione del PSA. Può essere utile che l'urologo gli faccia fare un'ecografia transrettale della prostata per vedere effettivamente questa ghiandola quanto come è rossa. Sta, certo. E allora, ripeto, è necessaria una presa di coscienza da parte del paziente, ma lo dico di nuovo in maniera provocatoria, è necessario trovare il medico bravo, che sia aggiornato, che queste cose le sappia, perché credetemi, oggi in Italia non esiste il rischio troppi PSA, troppi esami inutili, esiste l'assoluto contrario di PSA che sono alti da tempo in uomini giovani, che sono tirati per il lungo e sta benedetta diagnosi non viene fatta, poi arrivano nei centri di riferimento dopo magari un anno di PSA di 5, di 7, di 8, gli sono stati dati per dei mesi dei farmaci totalmente inutili e gli facciamo poi una diagnosi di cancro avanzato e ti saluto Maria. Il problema è lì, non è che si corre il rischio oggi di trattare troppa gente, se mi consente, tra virgolette, magari fosse così. Settimana scorsa ero a Montreal alla Società Americana di Urologia, la sezione loro più al nord, e si è parlato per 3 giorni di screening di tumore della prostata. La loro situazione, l'hanno detto chiaramente, un qualsiasi uomo al di sotto dei 60 anni con un PSA di 2 si becca una biopsia regolarmente. Allora, loro sì, sono arrivati all'eccesso, perché a volte trovano dei tumorini che sono inutili da trovare, perché non daranno mai problemi. Fattivi. Perché? Perché là così ogni singolo uomo dai 40 anni in più, che glielo dica al medico meno, va a farsi fare il PSA. Ma da noi, cari signori, non lo fa nessuno. i malati arrivano 9 su 10 che sono avanti, per cui le dichiarazioni contro sta povera molecola che ha salvato la pelle a un sacco di persone, ripeto, mi addolorano, perché spesso arrivano da pulpiti che non sanno la più pallida idea di quello che si vede in ambulatorio, e molto della responsabilità, ahimè signora, l'abbiamo noi come medici, perché molti di noi non sanno esattamente quel che devono dire e tirano per il lungo l'ammalato, anche quello che va desideroso di essere aiutato e si sente dare risposte non idonee. Bene, professore, lei è stato chiarissimo e devo dire che almeno da quanto lei ci racconta non dobbiamo avere paura di questo esame, anzi non dovete voi avere paura di questo esame, anzi controllatevi. Eccoci, siamo tornati insieme in una puntata in cui affrontiamo il tumore della prostata, un tumore che abbiamo visto ha numeri molto alti nella popolazione maschile, ma che può essere ampiamente, professor Montorsi, diagnosticato per tempo. Gli esami ci sono, non dobbiamo avere paura. Questo è un po' il messaggio che oggi ci sentiamo di dare, professore. Sicuramente sì, messaggio però che al quale deve seguire poi la parte più importante. Ipotizziamo che al signor Paolo Rossi, di 52 anni, venga trovato un cancro della prostata. Questo può avere delle caratteristiche di aggressività più o meno gravi a seconda del risultato della biopsia prostatica, che vuole dire un piccolo prelievo di prostata che viene fatto con un esame, con una biopsia tipicamente eseguita per via transrettale con un ecografo, sì. Viene fatto in anestesia locale. Quando l'esame è fatto in maniera corretta non deve fare male, e quindi il paziente va preparato in maniera adeguata con gli anestetici locali giusti. Allora la biopsia ci dice c'è o meno un tumore, prima sì. Informazione, seconda, il tumore è brutto o è poco aggressivo. A quel punto di fronte a noi abbiamo un uomo che ha delle sue caratteristiche, ha la sua età da valutare, bisogna capire se il tumore è brutto o cattivo, quanto è esteso, una serie di informazioni che permettono al medico preparato di rispondere a una domanda: quanto c'è bisogno che questo paziente venga effettivamente curato? Ci sono dei signori ai quali si può dire guardi che la sua cosa si presenta molto in fase iniziale, molto di crescita lenta, io la posso sorvegliare con grande attenzione. Torni tra un anno con un nuovo PSA, ripeteremo delle biopsie per vedere se il tumore è sempre buono o è diventato peggiore. E ci sono dei signori che vanno avanti tanti anni in questo modo. Ecco, quella che si chiama anche vigilanza attiva. Sorveglianza attiva, assolutamente sì. Questa è un'ipotesi, sì. Però il medico la deve conoscere, deve spiegare al paziente. Tipicamente questa, a mio parere, è particolarmente adatta ai signori che sono in là negli anni. Un paziente che ha 70 anni o più e che magari ha contemporaneamente ha avuto un problema di cuore, ha un problema di diabete. La domanda che il medico deve porsi è: quanto è il rischio che il tumore della prostata che ho diagnosticato possa creare i veri problemi al paziente nella vita che gli resta? Perché se la domanda, la risposta è poco, pochi, ma allora che se la tenga. Certo. Mica la deve tirar via o far le cure. Perché dare terapie anche mediche? Aspetta, queste sono parametri noti in tutto il mondo ai medici esperti. Per cui il paziente, secondo me, si faccia consigliare dal proprio medico di famiglia, su quale è uno specialista bravo della sua regione. Ci sono 2000 soci della Società Italiana di Urologia in tutta Italia, uno bravo lo si trova in qualsiasi angolo del paese. Sì. Per cui andate a farvi dare il parere dell'esperto, ma andateci con fiducia. Professore, abbiamo il nostro ascoltatore, il nostro primo ascoltatore faceva riferimento a una risonanza magnetica particolare? Sì, allora la risonanza magnetica che poi può essere arricchita con l'analisi spettroscopica può servire, perché in alcuni pazienti, se la risonanza non vede assolutamente niente, sì, allora si può proprio pensare che anche l'eventuale tumorino trovato sia proprio piccolo. Però attenzione, qual è il limite? Si parla in generale di risonanza, e se si sa che un ospedale ha la risonanza, pronti via, si va a farsela fare. Le risonanze che sono state impiantate la prima volta in Italia risalgono a 30 anni fa. Bisogna vedere che tipo di macchina ha l'ospedale, che tipo di tecnologia può impiegare, e quindi è un esame che può dire qualche cosa di più solamente però se è fatto al top della tecnologia e se è letto, se è interpretato da un radiologo che sia super esperto, perché se no, ed è quello ahimè che vedo quasi sempre, viene fatto un gran rebelotto, come si dice a Milano, e si complica la vita al paziente con informazioni che non che sono serve. Corrette. Vittorio ci chiama da Milano. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a lei, buongiorno professore. Praticamente che idea si è fatto, Vittorio? Il professore ha già risposto a tutto. Eh sì, infatti io sono senza parole, come si dice. Sì, nel senso, io casi in famiglia non ne ho. Ho 49 anni, come diceva la signorina, ho fatto l'esame 10 giorni fa. Come non è andato? Non risulta assolutamente niente, anzi sono basso. Sentivo parlare di questa risonanza magnetica. Il mio professore, il mio dottore di base ha detto ma sì, è poco attendibile, non so se perché conosce gli ospedali di Milano e non hanno un radiologo in gamba e non hanno le macchine giuste, non lo so. E però ha detto beh, casomai adesso lei fa i 50 anni a gennaio, l'anno 21 facciamo un esame. L'esame, perdonatemi, sarebbe quello del dito. E quindi non è che mi scandalizzi molto, ma voglio dire, se io vado bene come PSA, l'esame è andato tutto bene, professore, sentivo che parlava dei 5 anni, non mi costa niente fare un esame tutto l'anno, ogni anno, però insomma praticamente ha risposto a tutto. No, se posso intervenire, perché sono sì. Questo ascoltatore dice cose importanti. Allora, se le hanno trovato un PSA che è inferiore a questa quota fatidica dello 0,9, il rischio che lei possa ammalarsi di tumore della prostata e morire di tumore della prostata nell'arco dei prossimi 25 anni è bassissimo. Per cui per quanto riguarda il PSA, lei potrebbe tranquillamente ripetere il prossimo tra 5 anni. Attenzione però, almeno la prima volta, quando ci si fa valutare, l'esplorazione rettale è importante perché ci sono purtroppo delle forme di tumore della prostata, anche aggressive, che producono poco PSA. Per cui una valuta è che allora possono avere PSA basso e durante l'esplorazione rettale si trovano dei reperti dubbi. Viene da dirsi, ma capperi, qui c'è qualcosa. Certo. Allora, faccia una visita ora. Se la visita viene normale, 1 più 1 fa 2. Visita normale, PSA molto basso, non ha familiarità, secondo le regole moderne dell'urologia, lei può farsi rivedere all'età di 54 anni, visto che adesso ne ha 49. Attenzione però, il paziente deve anche sapere che le linee guida non possono mai essere applicate al caso specifico, per cui danno delle raccomandazioni. Allora, ci sono poi sempre le eccezioni, santo cielo, ma in un caso come quello del nostro amico, che lui vada tutti gli anni a farsi vedere, non è sostenuto dalle più recenti evidenze scientifiche. Quindi comunque l'esplorazione rettale Montorsi è fondamentale anche in presenza di un PSA molto basso. Quindi non, il PSA non sostituisce. È una delle tematiche di cui più si è discusso, perché attenzione, nei paesi dove esiste un controllo della spesa sanitaria ancora più attento rispetto al nostro, si ragiona pensando, ma l'esplorazione rettale vuol dire una visita. La visita costa, sì. La può o pagare il paziente, ma soprattutto se è una visita fatta nell'ambito del sistema sanitario nazionale, la deve poi pagare questo stesso. Quindi si è discusso un sacco per capire, è una spesa giusta da sostenere. Si pensava inizialmente che questo effettivamente potesse essere tralasciata, ma sono stati proprio i due mega studi di screening americano ed europeo pubblicati 3 mesi fa che nell'ambito di tutte le polemiche che hanno sollevato hanno però entrambi indicato che l'esplorazione rettale almeno una volta è importante. Però poi ritorno all'ascoltatore che ci ha appena parlato. In un quadro di questo genere, con un rischio di ammalare bassissimo, ma per quale motivo devo farlo venire tutti gli anni? Certo. E lui venga tra 5 anni, basta. Questo è quanto va detto. Andrea ci chiama dalla provincia di Ancona, poi abbiamo Alessandro da Bologna e Piero da Alessandria. Andrea, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno al professore. Allora, io quest'estate ho avuto un problema, dovevo andare al bagno spesso. Hanno fatto un'urinocultura, non risultava nulla, però la PSA. Ho fatto il PSA, il risultato 1,94. Sì. Il mio medico di base mi ha detto, guarda, è un periodo caldo, estivo, il mio lavoro li faccio altri trasporti, ha detto prova a farlo dopo un periodo di riposo, dopo le ferie lo ripetiamo. L'ho ripetuto e questo PSA si è portato a 0,60. Sì. Ora volevo sapere, siccome... riprendo il mio lavoro dopo l'estate, dopo un turno notato fermo per forza, quindi non sono più stato seduto, e volevo sapere se dovessi approfondire la cosa oppure potrebbe bastare così. Quale dei due valori praticamente è quello buono? Andrea, non la sentiamo bene, mi dica gli anni. 39. Eccoci, siamo tornati. Professor Montorsi, valori di PSA diversi da una rilevazione all'altra, quale credere? Che cosa si fa? In linea di massima è giusto credere al valore più basso. Questo signore sembrava fosse un medico lui, perché si è spiegato benissimo. È un uomo giovane, meno di 40 anni, fa il trasportatore, sta parecchio seduto, aveva qualche disturbino, fa il PSA e viene 1,9, che non è tanto alto, ma non è neanche quello che dovrebbe essere. Però aveva dei disturbi che potevano far pensare al medico attento, e lui ha evidentemente un bravo medico a casa, che questo stato potenziale infiammatorio potesse influire sul PSA, cosa che è vera. Nel primo caso, dicevo, può essere utile fare una terapia con degli antibiotici. Attenzione, a volte esistono delle prostatiti, infiammazioni prostatiche, che non danno segno di sé con gli esami di laboratorio. Magari il PSA è mosso, può essere utile fare comunque una terapia con un antibiotico particolare che si sa agire a livello prostatico, la categoria si chiamano i chinolonici, e farglielo fare per 20 giorni e ripetere poi il PSA, perché se un PSA di 2 dopo la terapia antibiotica mi crolla 0,5, eh certo, io interpreto che la situazione è diversa. Al contrario, faccio fare la mia bella cura antibiotica e dopo i 20 giorni da 2 mi va a 2,5, non va mica bene. Allora al paziente va spiegata la cosa. L'altro aspetto che ci terrei a sottolineare è che in ambulatorio è rarissimo trovare un paziente che non capisca. Oggigiorno, soprattutto nei più giovani, se il medico prende il tempo necessario e si sa spiegare bene, capiscono tutti quello che devono fare. Da qui spiego e insisto sulle responsabilità anche dei professori universitari, che insegnino bene agli studenti e facciano loro capire quel che devono fare, perché non è che parliamo col paziente che sono degli sciocchi, non si vogliono assolutamente curare, ma loro vengono apposta poi la gente per farsi dire dimmi quel che devo fare e lo farò e io lo faccio. Ecco. Ecco, noi abbiamo bisogno di tempo e di chiarezza, però professor Montorsi, intanto le dico che lei deve aprire un fans club, perché sono, non so, si metta su YouTube, faccia qualcosa, ma sono arrivati tantissimi messaggi anche da suoi ex allievi che dicono che è il numero uno, e da moltissimi ascoltatori che la ringraziano per la chiarezza e la competenza. Segno che su questo discorso ci vuole proprio una persona, che un esperto, che ci spieghi bene le cose senza, no, farci preoccupare, ma per darci tutti gli strumenti per occuparcene serenamente. Andiamo a Bologna, c'è Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno, vi ringrazio anch'io per la disponibilità e la chiarezza. Io ho 30 anni, faccio il commerciale. Da qualche mese, tutte le volte che vado in bagno, ho qualche perdita. Ho chiesto al mio medico di base, mi ha detto di rimandare eventuali controlli. Volevo chiedere se appunto a 30 anni, un'età ancora così giovane, mi dovevo iniziare a preoccupare per eventuali problemi alla prostata. Grazie. Grazie Alessandro per la domanda. Così il professor Montorsi, intanto che risponde ad Alessandro, ricorda per tutti gli ascoltatori che si sono messi magari in linea solo ora e che mi chiedono via SMS di ripetere i segnali di un che non devono essere essere sottovalutati, così li ripetiamo. Professore. Allora, in un ragazzo di 30 anni la prostata tipicamente, se si ammala, lo è per un fatto di tipo infiammatorio. Le cosiddette prostatiti sono le protagoniste dell'età giovanile. In ambulatorio arrivano età che variano dai 20 ai 40 anni. Sì. Disturbi, necessità di correre a volte a fare la pipì, qualche anche secrezione che esce dall'uretra, il fatto che ci possa essere un'urgenza, un doversi affrettare per urinare o anche dei dolori mentre si fa pipì. Il medico bravo sa che esiste un tipo di terapia medica da fare. Ha poco logica in un paziente sintomatico far subito un PSA, perché probabilmente sarà alzato per effetto della prostatite. E allora troviamo un PSA di colpa 4, il paziente si dispera e poi ci aspettiamo che dopo aver fatto la cura il PSA scenda. Ha più logica curare per bene il paziente e fargli fare un controllo quando il paziente dice adesso sto bene. Per ritornare a quanto lei mi chiedeva di ricordare, l'età ideale sulla quale sono d'accordo tutte le società scientifiche attualmente è quello di fare un primo PSA a 40 anni, indipendentemente da tutto il resto, perché a quell'età mediamente la prostata è piccola e il PSA è effettivamente veritiero del fatto se ci sia dentro qualcosa di brutto o meno. Certo. Perché quando la prostata diventa la prostatona, il PSA può salire solamente per l'effetto dell'ingrandimento, che magari è del tutto benigno, per cui il paziente corre il rischio di doversi far fare delle biopsie nell'ipotesi che ci sia un cancro e la prostata è lì bella tranquilla che di cancro non ha assolutamente nulla. Quando si ha in mano il risultato di questo PSA, il medico preparato deve applicare delle regole che sono conosciute a tutti di valutazione del rischio, deve guardare l'età, deve guardare la familiarità del paziente, deve averlo visitato se questa è una visita che va bene o che non va bene e allora dire al paziente stesso, tutto sommato la sua situazione è a basso rischio, a rischio intermedio, ad alto rischio di sviluppare una malattia seria. Sulla base di questo darà al paziente le adeguate indicazioni. Piero ci chiama da Alessandria. Buongiorno Piero, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Ormai lei sa tutto. Sa tutto, sì. Posso anch'io ormai fare consulenza. Posso formulare la mia domanda? Sì, al professor Montorsi? Se gliene resta una, perché è così chiaro il professor Montorsi, non so quale aspetto non abbiamo ancora toccato, ma sono contenta che lei abbia ancora una domanda. Ascolti, io ho 47 anni, circa 4-5 anni fa ho avuto un episodio abbastanza forte di prostatite, poi fortunatamente con la cura antibiotica è passato. C'è stata di nuovo una ricaduta recentemente. Volevo chiedere, premetto che ho fatto dopo le varie cure antibiotiche, ho fatto sia l'esame di rettoscopia sia di colonoscopia senza avere nessun riscontro grave di tumori, queste cose qui. Volevo chiedere al professore se ci sono correlazioni fra le prostatiti e il tumore alla prostata. La ringrazio. Allora, la domanda è da 100 milioni, perché gli studi sull'animale da esperimento suggeriscono che le infiammazioni che rimangono nel tempo e non vanno mai via possono essere facilitatrici. Non esiste però nessun tipo di dato nell'umano che abbia mai confermato questo. Per cui questo è un signore giovane e vede che in trasmissione, se non sbaglio, hanno chiamato quasi tutte persone sotto i 50 anni, che conferma quanto le dicevo all'inizio. Noi vediamo sempre più uomini giovani, piuttosto del tipico settantenne che veniva a farsi vedere tanti anni fa. Un giovane di 47 anni deve farsi il controllo del PSA, che deve essere interpretato seguendo le regole che abbiamo detto prima. Se posso dire una cosa alla quale tengo, al San Raffaele, dove ho l'onore di lavorare, abbiamo ormai aperto un istituto di ricerca urologica che si dedica specificatamente a questi aspetti della prostata e portato al Ministero della Salute una proposta di studio di screening per il tumore che guarda proprio agli uomini tra i 40 e i 50 anni, dove ancora in un'età così giovanile sappiamo pochissimo, che vorrebbe dire, se ci daranno i finanziamenti, di permettere a persone di questa fascia di età che stanno bene di avere un PSA, di essere visitate, di fare un'ecografia e poi di essere seguite nel tempo, al contrario di un altro gruppo di pazienti al quale verrà detto lei ha 42 anni, verrà seguito solo come si farebbe oggi, solo certo, se lei ne avesse la necessità. Quindi confrontare i due approcci. E questo staremo a vedere, è una domanda, è un punto interrogativo scientifico al quale oggi non c'è una risposta. Ed è di straordinaria importanza. I due studi di screening che ho già nominato, di cui si è abusato, tanto se ne è parlato nei mesi scorsi, avevano un'età media del fare la biopsia in Europa di 66 anni. Allora, per l'amor di Dio, a 66 anni nessuno è anziano, c'è una vita ancora davanti. Ma però, se io voglio trovare la malattia che mi permette, se la curo, di cambiare la vita al mio paziente, non lo devo fare a 66 anni, lo devo fare a 46. Certo. È tutta un'altra cosa. Ormai oggi è un altro modo di affrontare il problema, professore. Assolutamente. Si svolta, possiamo dire così. La sopravvivenza media italiana oggi credo che arrivi nei maschi a 82 anni. Allora, se il problema lo pongo quando ho una persona che di fronte a sé ha almeno 30 anni di vita. Certo. E che è giovane, che ha bambini piccoli a casa, è lì che ti cambia la vita in ambulatorio, non il signore pensionato che per l'amor di Dio camperà ancora tanto tempo. Di cui vi occupate anche di lui, ma come sempre è meglio giocare in anticipo. Assolutamente sì, però non si può giocare indiscriminatamente. Allora, coloro che non sono favorevoli a questo screening hanno ragione quando dicono che non si può sparare ad alto zero come nella Grande Guerra. Bisogna identificare coloro che hanno la necessità. Professor Montorsi, grazie per essere stato con noi, è stato davvero chiarissimo. No, grazie a voi. Le rinnovo l'invito per il suo fan club. Molto gentile, grazie. Buona giornata. Saluto al professor Montorsi. Io avevo in linea Romana Bosco, maestra di cucina del Melograno di Torino. Buongiorno signora Bosco. Buongiorno Nicoletta. Con lei volevo parlare di pasta. Buttiamo la pasta. Proprio venerdì abbiamo parlato dell'importanza di inserire correttamente carboidrati e proteine. La pasta è quindi sicuramente è un alimento italianissimo e da inserire nella dieta quotidiana. Ma signora Bosco, il tempo non ci permette di fare questo collegamento. Allora io le do questo appuntamento. A domani parliamo di pasta. E intanto che ci sono mi allargo, le chiederei di preparare anche per noi delle ricettine rapide che noi potremo portare in tavola coniugando gusto, linea, sapore, va bene? Quindi ci sentiamo domani, grazie alla signora Bosco del Melograno di Torino, buona giornata a voi che ci avete ascoltato, appuntamento a domani dopo il GR delle 11, mi raccomando una puntata importantissima, non mancate, buona giornata.